Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Elsa Agalbato legge Bel Ami di Guy de Maupassant, traduzione di Giorgio Caproni. La signora Forestier non era ancora tornata. Indugiava a Cannes. Georges ricevette una sua lettera che ne annunziava il ritorno soltanto per la metà d'aprile, senza un'allusione ai loro addii. Aspettò. Se lei pareva tergiversare, lui era decisissimo ormai a usar tutti i mezzi per sposarla. Confidava nella propria stella, nella forza di seduzione di cui si sentiva dotato, forza vaga e irresistibile, capace di piegar qualsiasi donna. Un breve biglietto lo avvertì che l'ora decisiva stava per scoccare. «Sono a Parigi. Venga a trovarmi. Madeleine Forestier». Nient'altro. L'aveva ricevuto con la posta delle 9. Entrò da lei alle 3 di quello stesso giorno. La signora Forestier gli porse le mani sorridendo col suo bel sorriso gentile e per qualche istante rimasero a guardarsi negli occhi. «Com'è stato buono», mormorò lei, «a venir laggiù in quella tremenda circostanza». «Qualunque cosa m'avesse ordinato», rispose lui, «l'avrei fatta». Si sedettero. Lei chiese notizie dei Voltaire, di tutti i colleghi e del giornale. «Ne sento molto la mancanza», disse. «Molto. Ero diventata giornalista nell'animo. Cosa volete? È un mestiere che mi piace». Poi tacque. A lui parve di capire, di intravedere nel sorriso di lei, nel tono della voce, nelle parole stesse, una specie di invito. E sebbene si fosse ripromesso di non precipitar le cose, balbettò: «Ebbene, perché? Perché non riprenderlo, quel mestiere col nome di Duroy?» Bruscamente lei si rifece seria e, posandogli una mano sul braccio, mormorò: «Non parliamo per ora di queste cose». Ma lui intuì che accettava e, caduto in ginocchio, le baciò appassionatamente le mani, barbugliando più volte di seguito: «Grazie, grazie, quanto l'amo!» Lei si alzò. Si alzò anche lui e s'accorse che era pallidissima. Capì allora di piacerle, forse da un pezzo. E poiché si trovavano a faccia, se la strinse al petto. Poi la baciò in fronte, un lungo bacio tenero e casto. Dopo essersi liberata scivolandogli di fra le braccia, lei disse seria: «Senta, mio caro, per il momento non ho ancora preso nessuna decisione, ma potrebbe anche essere un sì. Deve però promettermi di mantenere il più assoluto segreto finché io non la proscioglierò». Lui giurò e se n'andò col cuore traboccante di gioia. Una sera Madeleine gli disse, guardandolo in fondo agli occhi: «Ne ha già parlato del nostro progetto alla signora de Marelle?» «No, mia cara, le avevo promesso di serbare il segreto e non ho aperto bocca con anima viva». «Beh, forse è venuto il momento d'avvertirla. Coi Voltaire me ne prenderò io la briga. Lo farà in settimana, vero?» Lui era arrossito. «Sì, domani stesso». Lei volse altrove lo sguardo, discreta, per non aver l'aria d'aver notato il suo turbamento, e riprese: «Se vuole, potremmo sposarci ai primi di maggio. Mi sembra l'epoca adatta. Mi rimetto in tutto a lei, e con gioia. Il 10 maggio, che cade di sabato, mi piacerebbe molto. Compio gli anni. Vada dunque per il 10 maggio. I suoi genitori stanno vicino a Rouen, vero?» «Sì, vicino a Rouen, a Canteleu». «Che fanno?» «Sono dei piccoli possidenti. Muoio dalla voglia di conoscerli». Lui esitò, piuttosto perplesso. «Ma per la verità sono...» Prese il coraggio a quattro mani e da uomo risoluto proseguì: «Cara, son dei contadini. Due poveri osti che si son cavati il pan di bocca per farmi studiare. Non me ne vergogno affatto, ma la loro semplicità, i loro modi rustici, forse potrebbero urtarla. Lei sorrideva deliziosamente, illuminata in volto da una bontà piena di dolcezza. Tutt'altro. Gli vorrò molto bene. Andremo a trovarli. Lo desidero. Riparleremo di questo. Anch'io son figlia di gente modesta, se non che io li ho perduti, i genitori. Non ho nessun altro al mondo all'infuori di... Gli porse la mano e terminò di lei. Lui si sentì intenerire, commosso e conquistato come non gli era ancora accaduto con una donna. «Ma è venuta in mente una cosa», disse lei, «ma è così difficile dirla». «Che cosa?» domandò lui. «Beh, vede, mio caro, io sono come tutte le donne di questo mondo. Ho anch'io le mie debolezze, le mie piccinerie. Mi piacciono le cose che luccicano, le cose risonanti. Ho sempre sognato di portare un cognome nobile. Non potrebbe, in occasione del nostro matrimonio, nobilitarsi un poco?» Era arrossita lei adesso, quasi avesse commesso un'indelicatezza. «Ci ho pensato spesso», rispose lui con semplicità, «ma non mi par cosa facile». «E perché mai?» «Perché», rise, «temo di rendermi ridicolo». Lei alzò le spalle. «Ma figuriamoci, figuriamoci! Lo fanno tutti quanti e nessuno ride. Divida il suo cognome in due. Du Roi. Andrà a pennello». Con l'aria dell'intenditore, lui rispose subito: «No, non va. È un procedimento troppo semplice, troppo comune, troppo conosciuto. Semmai avevo pensato d'assumere il nome del mio paesello come pseudonimo letterario per poi aggiungerlo a poco al mio. E soltanto più in là di spezzare il mio cognome in due, come propone lei». «Il suo paese si chiama Canteleu?» «Sì». «Non mi piace come finisce», osservò lei perplessa. «Vediamo, non la si potrebbe modificare un tantino la parola Canteleu?» E gli porse un foglietto su cui era scritto: «Signora du Roi de Cantel». Georges rifletté un istante, poi disse serio: «Sì, ottimo!» Lei era entusiasta e badava a ripetere: «Du Roi de Cantel, signora du Roi de Cantel, è stupendo, è stupendo!» «Come si chiama suo padre?» «Alexandre». Madeleine mormorò due o tre volte di seguito: «Alexandre», ascoltando la sonorità delle sillabe. Poi scrisse su un foglio intatto: «Alexandre du Roi e consorte si onorano di partecipare alla signoria vostra il matrimonio del figlio Georges du Roi de Cantel con la signora Madeleine Forestier». Guardò il biglietto scostandolo un poco, soddisfatta dell'effetto, e disse: «Basta un poco di metodo e si riesce a tutto». Ricevette l'indomani un telegramma della sua amante, la quale gli annunziava che sarebbe giunta da lui al tocco. La attese con un certo patema, risoluto però a tagliar corto, a spiattellarle tutto senza preamboli, per poi, passata la prima emozione, ragionar saviamente, dimostrandole che non poteva restare scapolo vita natural durante e che, se suo marito s'ostinava a vivere, aveva pur dovuto pensare a un'altra per farne la sua compagna legittima. Era ansioso però, e quando sentì squillare il campanello gli venne addirittura il batticuore. Lei gli si buttò fra le braccia: «Ciao, Bel-Ami!» Ma trovando piuttosto freddo il suo abbraccio, lo squadrò e gli chiese: «Che hai?» «Siediti», le disse lui, «dobbiamo parlare di cose serie». Si sedette senza togliersi il cappellino, alzando soltanto la veletta fin sopra la fronte, e attese. Lui aveva abbassato gli occhi per preparare l'esordio. Cominciò adagio: «Cara, se mi vedi così turbato, così triste e così imbarazzato, è perché ti devo fare una confessione. Ti amo molto. Ti amo davvero dal profondo del cuore, tanto che il timore d'addolorarti m'affligge più della notizia stessa che ti devo dare. Impallidendo e presa dal tremito, «Che c'è? Parla, presto!» disse lei. Con voce piana ma risoluta e con quella falsa aria abbacchiata che uno assume nell'annunziare certe felici disgrazie, lui rispose «C'è che mi sposo!» Lei emise un gran sospiro di donna lì lì per svenire, un sospiro penoso sgorgatole dal profondo del petto, e rimase senza fiato, incapace di dire una parola. Le si inginocchiò allora davanti, senza tuttavia osar di toccarla, e balbettò, turbato da quel silenzio, più di quanto lo sarebbe stato dalle sue escandescenze. «Chloe, mia piccola Chloe, cerca di capire la mia situazione, di capire in che posizione mi trovo. Oh, se avessi potuto sposare te, che felicità! Ma sei maritata! Che mi restava da fare? Rifletti, su, rifletti! Devo ancora affermarmi, e non ci riuscirò fino a quando non avrò una casa mia. Sapessi, ci sono stati dei giorni in cui tuo marito l'avrei ammazzato!» Lei allora fece uno sforzo, un grosso sforzo per mostrarsi dignitosa e fiera, e domandò con la voce velante delle donne che hanno il pianto in gola, «Chi è?» Lui esitò un attimo, poi comprendendo che era necessario, disse, «Madeleine Forestier». La signora de Marelle sussultò in tutto il corpo. Poi rimase muta, talmente assorta in una sua idea che pareva aver dimenticato che lui era lì ai suoi piedi. Lei allora lo guardò, abbassando il capo verso di lui. Lo guardò con occhi molli di pianto, occhi disperati, così affascinanti e così tristi, colmi di tutto il dolore di cui è capace un cuore femminile, e balbettò, non mi resta nulla da dire, da fare. Tu hai ragione, tu hai scelto proprio quel che ti ci voleva. Si svincolò con una strappata all'indietro e se ne andò, senza che lui avesse cercato di trattenerla ancora. Giunto il fatidico 10 maggio, i novelli sposi, ritenuta inutile la cerimonia religiosa, dal momento che non avevano invitato nessuno, tornarono a casa per far le valigie, dopo una breve visita in municipio, e alla stazione di Saint-Lazare presero il treno delle 18 che li portò verso la Normandia. S'erano sì e no scambiati una ventina di parole fino al momento in cui si trovarono soli nel vagone. Appena il treno si mosse, si guardarono e si misero a ridere per nascondere un certo impaccio che non voleva andare a divedere. Lui continuava a tenerle stretta la mano, domandandosi preoccupato tramite quali trapassi sarebbe giunto alle carezze più intime. Dava delle lievi strizzatine a quella mano, senza che essa rispondesse all'invito. Disse, «Mi sembra così strano che lei sia mia moglie». La giovane signora parve sorpresa. «E perché?» «Non lo so, mi sembra strano. Ho voglia di darle un bacio e mi stupisco d'averne il diritto». Lei gli porse tranquilla una guancia, che baciò come avrebbe baciato quella d'una sorella. «La prima volta che la vidi», riprese lui, «quella sera che fui invitato a cena dai forestieri, ricorda? Pensai, cribbio, se riuscissi a scovare una donna così, beh, ora è fatta, ce l'ho». «Carino», mormorò lei, fissandolo con una punta di malizia negli occhi, sempre illuminati dal sorriso. Duroy, chinatosi mentre lei guardava dal finestrino aperto, le posò sul collo, fra i capelli, un lungo bacio. Un bacio da innamorato. Madeleine rimase qualche istante immobile, poi, alzando il capo, «La smetta, mi fa il solletico!» Ma lui non si diede per inteso e continuò a strusciarle su e giù con una carezza snervante e prolungata i baffi arricciati sulla pelle bianca. «La smetta, le ho detto!» ripeté lei scotendosi. Georges le pose la destra sulla nuca e la costrinse a girare il volto verso di lui. Poi si gettò su quella bocca, come uno sparviero sulla preda. Lei si dibatté, lo respinse, cercò di svincolarsi. Ci riuscì al fine e ripeté per la terza volta, «Ma la vuole smettere?» Lui non la ascoltava più. La stringeva, la baciava ingordo e fremente. Cercava di rovesciarla sui cuscini del vagone. Liberatasi a gran fatica e alzatasi di scatto, «Ma insomma, George!» esclamò. «La smetta! Mica siamo dei ragazzi! Possiamo aspettare benissimo d'essere a Rouen!» Lui se ne rimase lì seduto, rosso come un gambero, e raggelato da quel buon senso. Poi, riacquistato un po' di sangue freddo, «E sta bene!» «Aspetterò», disse di buon umore. «Ma badi che non sarò più buono a spiccicare una ventina di parole fino a Rouen. E siamo appena a Poissy». «Ci penserò io a parlare», disse lei, rimettendosi pian piano a sedere accanto a lui. E con gran precisione prese a discorrere di quel che avrebbero fatto al ritorno. Sarebbero rimasti nell'appartamento da lei abitato col primo marito, e Duroy avrebbe ereditato, oltre alle mansioni, anche lo stipendio di Forestier alla Vie Française. Lui riprese. «Visto che cominci a darmi del tu, seguirò subito il tuo esempio e ti dirò, amor mio, che ti adoro sempre di più, ogni istante di più, e che Rouen mi sembra tanto, tanto lontana». Parlava ora con intonazioni d'attore, con buffi giochi fisionomici che mettevano di buon umore la giovane signora, abituata ai modi e agli scherzi degli scrittori più scapigliati. La notte calava piano piano, avvolgendo d'ombra trasparente come d'un tenue velo nero la vasta distesa dei campi a destra. Il treno stava fiancheggiando la Senna, e i due giovani si misero a guardare nel fiume che si srotolava parallelo al binario come un largo, lucido nastro metallico, i riverberi rossi, le sgocciolature d'un cielo cui il sole, abbassandosi, aveva dato una velatura di porpora e di fuoco. Quei bagliori andavano a poco spegnendosi, si facevano cupi, s'oscuravano tristemente. E la campagna si immergeva nel buio con quel brivido sinistro, quel brivido di morte che sempre all'imbrunire trascorre la terra. La malinconia della sera entrava dal finestrino aperto, si infiltrava negli animi, pur così gai poco fa, dei due sposi fattisi silenziosi. S'erano avvicinati l'uno all'altro per assistere all'agonia del giorno, di quella bella giornata serena di maggio. Elsa Galbato ha letto Bellamy di Guy de Maupassant, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.